Eh sì, noi siamo tornati qui su Radio Ciroma, siamo in Mozilla Bros in diretta ogni mercoledì alle 19, ma oggi abbiamo iniziato alle 19.20 per colpa di chi. Vi Gesù. Diamo il nostro bentornati qui sulle nostre frequenze radiofoniche e rispondiamo subito a tono a chi dice che siamo una brutta trasmissione. Passiamo buona musica. Show me, show me. Ehi, lascia entrare Ascanio, il successone, il sempre verde successione del nostro amico iraniano Shaprek Shakrazam, famosissimo in tutta la Persia e la costa orientale americana. Perché lui, cioè, è iraniano, però vive in America. Lo sapevate? Ci sta illuminando. Sì, lui vive in America e fa i concerti lì. È molto richiesto dai persiani d'America. E anche da noi, dai nostri radioascoltatori di Radio Cinema, che sicuramente l'avranno riconosciuto e apprezzato. Alessia, che ne pensi di Shaprek Shakrazam? È bellissimo. Quando organizzano un concerto a Cosenza? L'abbiamo chiamato, in realtà gli abbiamo detto che la Proloco era molto interessata affinché lui venisse qui a Cosenza, ma non ci ha risposto ufficialmente. Tramite Matteo, il nostro Mozilla Bros di Milano, che salutiamo, gli abbiamo mandato un'email ufficiosa e ufficiale, non ci ha ancora risposto. Poi avrà capito che, insomma, è un po' una presa per il culo, diciamo, questa... No, ma secondo me è che ancora Cosenza forse non è pronta per le sue melodie. Ma Cosenza è pronta per i Mozilla Bros che tornano qui sugli FM. Che swing! Che poi, visto che il tempo è relativo, effettivamente ci potrebbero anche stare ascoltando in replica, tipo su Radio Transizione di Fase. Potrebbe essere già lunedì e potrebbero essere le 20. Spero che quelli di... Salutiamo i nostri amici di Radio Transizione di Fase. Spero che abbiano scaricato il podcast corso da Spreaker, perché mi sono scordato di metterlo dal sito. Male. Quindi ci scusiamo con tutti i nostri radioascoltatori di Transizione di Fase. Voi intrattenete il pubblico mentre io non devo rispondere più a telefono. Gli squilli. Proprio, ci ricordano i nostri contatti, Alessia, tu li sai? I nostri contatti? Scusami, se fai le veci di Simona, no? Allora devi ricordare i nostri contatti. Innanzitutto, se volete intervenire con noi direttamente, proprio per parlare con noi, non lo so, è interessante magari la discussione, che a breve avremo una discussione molto calda, no? Ecco, di questo tipo. Se volete intervenire, il numero è 0984 28 250. Se volete intervenire in diretta, vi colleghiamo. Ci volete fare qualche domanda, qualche richiesta musicale, sempre del livello di Shakrak Shakrazam, oppure qualche pezzaccio blues, che non mancheremo di mettere. E poi, ovviamente, Facebook. Ci potete scrivere sul nostro Facebook Mozilla Bros, sul nostro Twitter ci menzionate. Meno male. E su identi.ca e su IRC. Benissimo. Provateci da qualche parte. Ci saremo. Fate un voice. Va bene, facciamo l'ordine del giorno. Abbiamo una serie di news nerd da dare come al solito. La nostra rubrica curata dal nostro sempre verde Ono Sendai. Ho notato che il tuo dread adesso ha raggiunto la lunghezza di Garulf. Sì, ma soffre il caldo. Soffre pure il caldo. Ah, sì? Sì, infatti devo ripigliarlo in qualche modo. E puoi usare limone, birra, whisky. Ci proverò. Ah, saponi vegani. No, carrebbe. Sulle note di Cab Calloway, che abbiamo rivisto l'altra volta al filmaccio dei Blues Brothers in HD, che dobbiamo dire è una critica, cioè al cinema sì, in HD, ma a me sembrava qualità cellulare. Secondo me l'hanno proprio scaricato da torrent. No, su torrent la qualità è alta, sai. Ma forse è che c'è uno schermo grande, zio, al cinema. È il proiettore che non dà. Però è sempre stato un bel film. Sì, è bellissimo. Poi vederlo al cinema è un effetto particolare. Ma infatti lo sappiamo che sono le palle quelle, le industrie cinematografiche che lamentano. Ma che palle le industrie cinematografiche, pirateria. Non è vero. Non è vero assolutamente. Ne parlavamo l'altra puntata, quando con Alessia parlavamo del social DRM. A un certo punto abbiamo preso l'argomento del copyright, delle restrizioni, delle censure, delle major discografiche, cinematografiche, che alla fine non fruttano alcunché. Anzi, ma lo sai che oggi anzi parleremo pure di qualcosa di simile, perché parleremo di brevetti software, cause, accuse, rimborsi. Wow, l'argomento è scottante. Guarda, proprio. Infatti, poi a proposito di pirateria, quale pezzo è scaricato da mandare dopo? I nostri pezzi sono tutte copie originali di backup di CT acquistati legalmente dal cantante. Va bene, senti, abbiamo un po' di news da dare? O volete un pezzaccio giusto al volo? Ma io direi il pezzaccio prima. Va bene, allora, dedicato a tutti quelli che ci ascoltano qui sui microfoni di Radio Roma e tutti quelli che sono, quali sono stati costretti ad ascoltarci, in particolare Egle da Roma, gli dedichiamo questo pezzo, lo conoscete sicuramente. Oh, oh, Pretty Woman. E bentornati qui sui microfoni di Radio Roma. Noi siamo i Mozilla Bros, qui sempre in missione per conto di Dio. Vi ricordiamo la nostra formazione base, alla regia ci sono io, Natale, e poi c'è il nostro Ono Sendai che ci parlerà di hacking, di news e di porno. E in realtà abbiamo anche una nostra ospite d'eccezione, Alessia, che ci viene a trovare per la seconda volta. Contentissima di questo fatto, ci intratterrà con le sue super news nerd. So che anche voi non vedevate l'ora di sentire le nostre super news, allora andiamo avanti. Ono, che è successo in questo World Wide Web? Ma niente, oggi siamo un po' sul legalese economico, a dire il vero, perché notizie di oggi che praticamente Microsoft aveva fatto appello a una sentenza dell'antitrust europea e oggi gli hanno detto: cazzi, devi dare 860 milioni di euro di multa, perché praticamente sembra che Microsoft faceva pagare praticamente dei prezzi proprio irragionevoli per ottenere l'accesso ad alcuni protocolli proprietari suoi e alle altre aziende. Questa qua, vista la posizione dominante, è libera. Ci stava qua Garulf che ricorda che quando una cosa è libera perché qua non è libera, visto che i protocolli erano proprietari, le altre aziende che magari volevano sviluppare un programma che si interfacciava a quel tipo di server doveva pagare, E loro, visto che sono dei loffi lobbisti, facevano pagare tantissimo in modo tale da scoraggiare magari software rivalo che poteva rubargli fette di mercato. E adesso sono stati condannati. Dovevano pagarne 899 milioni. Proprio, oh, 899 milioni? Sì, capisci. Ma sai chi gli ha fatto questa multa? Sì, Mario il Monti. Il nostro caro premier Mario Monti ha fatto questa multa alla Microsoft. Vabbè, ha ma era stato bene. Costretto, altrimenti figurati. Sì, figurati. Mone dovrà pagare solo 860. Ah, uno sconticino sì. Di 30 però milioni. Però hanno detto euro. Già che fanno ricorso. Perché secondo loro non è giusto. Cioè già capì, c'è un sistema Windows in ogni computer che tu vai a comprare. Eh beh, non è antitrust, no. Questo, cioè è proprio il massimo della libertà di scelta. Sì. E la cosa peggiore, sai qual è? Che sempre di oggi è una notizia sui patent troll. Ah, che sono i patent troll? Che sono i patent troll? Alessia, cosa sono i patent troll? L'università di Boston l'università di Boston ha acquistava dei brevetti senza utilizzarli. Beep, no, dai, ce lo puoi fare. E quando venivano utilizzate le cose per cui che prevedevano questi brevetti, l'università faceva causa. Beep, non proprio, però ci siamo quasi. Era uno studio dell'università di Boston. Ah, era uno studio. Che parlava di sti patent troll, che sono queste aziende cacacazzi che, come dicevi tu, appunto acquistano o hanno un sacco di brevetti, però non li usano. Cioè non è che sviluppano software o innovazioni tecnologiche con quei brevetti. Però cosa fanno? Aspettano che qualcuno utilizzi qualcosa che somigli a quello che loro hanno brevettato e gli fanno causa. E sai a cosa ha portato sta cosa, secondo questo studio? Aspetta che mo te lo dico. A 29 miliardi di dollari l'anno persi in cause e cazzini vari, senza contare magari i costi indiretti, tipo il ritardo dell'emissione di un software sul mercato. È nata tutto questo, sai perché? Perché? Perché ha ragione Garof, quando una cosa è libera, è libera. E invece loro ci imbracchiano tutte queste limitazioni artificiali che non fanno progredire in nessun modo l'informatica o l'umanità. E cercano solo di fare soldi. Che te ne pare? Come? Niente. Scusami, che ne pensi tu di queste cose? Io sono a favore dei brevetti in generale. Poi questa cosa che è proprio siamo un dibattito. Guarda, siamo arrivati al livello di contrasto quando ci hanno chiamato dalla Microsoft, ti ricordi? Sì. Da Seattle. Che esperienza. Che esperienza. No, ti spiego, secondo me quando fai un qualcosa la devi brevettare. Quindi certo. Perché? Acquistare i brevetti. Perché se hai un'idea la devi brevettare e sfruttare questa idea. Se acquisti i brevetti per poi fare causa agli altri, allora non è... Come ha fatto Oracle. Non è giusto. Però io sono a favore dei brevetti. Però pensa, metti che ne so, qualcuno brevetta qualcosa che... Però un altro magari ha reinventato di molto simile, che comunque serve a una piccola comunità per fare un qualcosa che non può permettersi di pagare. O pensa se uno avesse brevettato la ruota. Hanno brevettato la barra di avanzamento. Capi? Cioè... Ho capito, però ci sono alcune aziende che hanno ottenuto dei brevetti importanti, tipo la Geox, che ha ottenuto dei brevetti in Cina dopo anni di battaglie. E secondo me è un traguardo importante ottenere Ma per quell'azienda, non per la comunità. Ma io lo stimo un imprenditore che riesce ad ottenere un brevetto in Cina. Madonna. Scusa. Abbiamo un anarcocapitalista. Abbiamo un anarcocapitalista in sala. Scusate, Soviet, il Comintern ci espellerà tutti. Vabbè. No, ma è un dibattito. È un dibattito aperto sulla. Ma noi in realtà a noi interessano i brevetti software. Sì. Cioè le brevettare. Ma no? Tu, ma penso pure ai brevetti sulle farmaci. Le idee non si brevettano in generale. Cioè, sì, se vuoi fare soldi, le brevetti. Ma perché sei in questo sistema e quindi sei costretto. Sei ingordo. No, perché altrimenti lo rilasci. Comunque i soldi ne fai, magari ne fai un po' di meno, però ne fai. Ma non è per i soldi, è proprio per una questione che poi ti copiano tutti e poi c'è più... Non è copiare, è modificare, è condividere. È migliorare. Migliorare. Questo è il sale dell'hacking. Vero o no? L'ABC. È il sale di Hack Meeting? È Garulf. Va bene, allora se volete intervenire con noi il nostro numero è sempre 0984 28250. Se volete chiamare Wilson Pickett il numero è 634 57. to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! Ma magari ci fosse qui B.B. King, ma sicuramente lo mandiamo sulle nostre frequenze, sui nostri microfoni. Il nostro amico B.B. King sarà a Milano il 13 luglio, quindi chi è il fortunato che può andarselo a vedere, se lo andasse a vedere. Tra l'altro sarà presente al Pistoia Blues, quindi chi può andare al Pistoia Blues andasse. Il Pistoia Blues è solitamente nella seconda settimana di luglio, quindi... Andiamo. Tra l'altro per gli affezionati di musica, di questo tipo di musica, chi ci ascolta ovviamente è un appassionato, o se è un utente, se è un nostro ascoltatore casuale, sarà sicuramente appassionato, perché oltre al Pistoia Blues c'è il Porretta Soul Festival da quelle parti lì in Toscana, e poi si aspetta un po' c'è anche l'Umbria Jazz, quindi veramente da quelle parti c'è da divertirsi. Tra l'altro c'è anche la Hack Meeting. Spero proprio che voi abbiate sentito i nostri sottofondi. Il dietro le quinte. Il dietro le quinte dei Mozilla Blues, molto interessante. Questo breve intro lo dedichiamo ad Angle, che salutiamo, non è potuto venire per un esame. Mannaggia. Maledetto Locke. Per tutti coloro che conoscono Locke e i suoi contesti storici e culturali, lo invitiamo a chiamarcelo 0984 28 250. Se volete intervenire con noi sulla discussione copyright, brevetti software, brevetti in generale, potete parlare con Ono Sendai direttamente. No, volevo fare una parentesi. Ah, ok, pensavo che era un cuore. No, vabbè, quello pure, però dopo, più in là. Ok. Era per dire che in fondo a volte a me vengono dubbi che esista Gesù. Perché c'è stato anche un caso di giustizia divina. Tipo, hai visto che gli hanno scontato quei 30 milioni di euro a Microsoft? Ah. Però hanno appicciato fuoco alla loro sede in Grecia. Stamattina all'alba un furgone carico di liquidi infiammabili ha sfondato la vetrina, non c'era nessuno dentro, però sono anche persone corrette, perché si sono appurati che non ci sia nessuno dentro, hanno incendiato, perché era un simbolo, secondo te, che hanno un simbolo del potere, del... Ma a me piace pensare che è un gruppo di nerd estremi che ha detto basta. Sì, comunque ti posso dire una cosa, fa schifo Windows, no, obiettivamente, cioè non si può fare. Dal libro Hackers, come tu sai, Bill Gates ha venduto quell'interprete basic a $150. Ed è stato anche il primo a lamentarsi del fatto che copiavano i suoi programmi. Spieghiamo un po' a chi ci ascolta, anche ad Alessia, che sì, è un po' estraniata questa discussione, mentre lei cerca l'altra news simpatica che ci doveva dare. Praticamente, innanzitutto vi dovete leggere un libro. Questo libro si chiama Hackers, di Levy. È proprio bello perché fa una specie di archeologia informatica degli eroi della rivoluzione informatica. Cioè non parla magari di Turing, degli hacker, di Turing, dei professori dell'informatica teorica. Di quelli noti, ma di quelli un po' meno noti. Quelli un po' meno noti che comunque hanno dato inizio a tutto, perché tipo il personal computer oppure questi tablet, questi telefoni che abbiamo in giro, nascono da questi hacker che hanno avuto la volontà di concepire il computer non come un mero strumento da venerare, ma qualcosa che potesse essere utile anche all'uomo stesso. Sì, sì. Cioè, infatti erano questi studenti che facevano incazzare un sacco i vertici universitari, perché c'erano sti mega calcolatori usati dai tipi in camice bianco solo per risolvere equazioni di millesimo grado, e loro li usavano per ciotie, tipo far fare musica. Sì, facevano le musiche. Cioè, da qualunque. Grandiosi. Questi hacker hanno... Sappiate che questi hacker hanno dato inizio a tutto, e noi abbiamo fatto questa trasmissione appunto per ricordare questi hacker. Greatest blues singer, Allora, caro Ono, eravamo rimasti. Abbiamo iniziato un filo del discorso che non abbiamo concluso. Quindi consigliamo la lettura di Hackers di Livi. Un altro libro interessante è L'etica hacker di Pekka Ikänen, se non sbaglio si chiama così. L'etica hacker, edito Feltrinelli. È molto interessante per chi vuole capire il fenomeno sociale dell'hacker come soggetto proprio anche rivoluzionario a modo suo. Perché è il nuovo eroe o antieroe di questa società. Forse è un antieroe, perché è solo contro tutti. Non è solo. Non lo so. È uno sciame. Vai, sei libero. Sì, libero, vai. Dici. L'importante è soprattutto è la libertà. Ma noi stiamo parlando di questo perché? Per i brevetti. Per i brevetti. Che fanno perdere. Vabbè, sti patent roll sono l'esempio più lampante di come appunto fa perdere soldi e tempo al progresso informatico. Però in generale, vabbè, noi più volte abbiamo parlato delle licenze tipo GPL, dove ognuno ha appunto le quattro libertà fondamentali, ovvero di avere il codice, poterlo modificare rilasciandolo sempre sotto GPL. Sì, tipo pure per la cosa che leggendo tipo Hackers di Steven Levy si scopre che agli albori appunto dell'informatica anni 50-60 condivide i programmi, lasciare le schede perforate nei cassetti dei laboratori affinché tutti li potessero prendere e imparare da quei programmi e modificarli, era la cosa più naturale del mondo. E il primo proprio che si è lamentato è stato Bill Gates, dicendo: oh, io ci ho lavorato un sacco, mo arrivano questi e mi copiano quei programmini di merda, tra l'altro, che ho fatto. Sì, sì, facevano abbastanza schifo, perché lui era riuscito a fare un interprete basic, allora i linguaggi di programmazione non erano come quelli che si usano oggi, era l'assembler, no? L'assembly, si usava questo linguaggio proprio basico che diceva al calcolatore cosa fare a livello tipo sposta questa variabile nel registro X, fai fare che ha reso la programmazione un po' più facile, però ha venduto questo, aveva la pretesa di vendere questo interprete a $150. Beh, ovviamente non rilasciando il codice e scrivendo un'email di protesta all'Homebrew Computer Club, che era una sorta di rete di hacker che si divertivano a modificare, ad aiutarsi fra di loro per migliorare proprio lo sviluppo dell'informatica e del personal computer, che poi è venuto dopo. Lui si è lamentato di questa cosa, ha mandato un'email dicendo che non era possibile che la gente si scambiasse il suo interprete, che lo dovevano pagare $150, perché lui aveva deciso che era così. Che poi anche a livello economico ha dimostrato che è comunque una stronzata, perché per esempio ci sono aziende che lavorano sul software libero tipo Red Hat, che è anche quotata in borsa e sembra non subire la crisi, proprio perché vende per esempio altri servizi tipo l'assistenza, ecco, vende la o modifica, sì. Tra l'altro è interessante questo tema della sopravvivenza e del, tra virgolette, business dei progetti open source. Cioè, come fa un progetto open source a non solo a mantenersi, ma a stare in una condizione, diciamo, agiata? Secondo te è possibile? Secondo me sì. Ma secondo la realtà basta collegarsi online. Faccio un esempio di progetto open source che vive in modo strafigo. Ma non mi viene tanto in mente. Però, Yamendo. Apache. Bravo, Apache per esempio. No, ma per esempio tipo Yamendo, il portale che fa scaricare musica, vive delle donazioni degli utenti o degli introiti di chi quando scarica la musica fa una donazione, per esempio. Questo sistema delle donazioni non è concepito come qualcosa di malvagio. Alla fine, se l'utente è libero di scegliere, secondo me dà il meglio di sé. Ed è sempre stato così. Quando hanno creato l'equivalente dell'interprete basic di... il Tiny Basic, che è stato che era stato pubblicato per risposta a Bill Gates, che lo vendeva a $150, è stato venduto a $5 simbolici e fatto circolare liberamente. Questo significava, a parte che era una presa per il culo a Bill Gates, ma significava che non devi far pagare le cose al prezzo giusto, e comunque devono essere, l'utente deve essere libero di scegliere quello che vuole, di poterlo modificare, migliorare, eccetera, eccetera. E pensiamo a quante persone si sono avvicinate alla programmazione grazie al Tiny Basic e non al Basic. Al Basic di lui. Ma secondo te paga questo discorso, visto che poi lui ha fatto la Microsoft, è diventato miliardario e Stallman è un pazzo che gira puzzolente in giro per il mondo? E gli rubano anche i computer. Ma sì, perché tipo l'80% dei server che tengono su internet, per esempio, gira su software libero. Allora il software libero un giorno vincerà tutto. e distruggere i cattivoni. Ma ha già vinto anche il mercato desktop abbastanza, sta svoltando verso il software libero. Verso il software libero, finalmente, visto che Windows obiettivamente, cioè, bisogna essere obiettivi, fa schifo. Sì, potrebbe... Tu che sei un esperto di sicurezza. Ma anche no. Però sì. Un appassionato. Va bene. Sai che tutte le vulnerabilità possibili e immaginabili nascono da questo software chiuso. Sì, ma il problema appunto è che essendo chiuso tu non sai effettivamente quante vulnerabilità ci stanno in giro che magari non sono appunto state pubblicate, rese pubbliche. Tu lo sai, Alessia? No. Va bene, interrompiamo il nostro discorso che è interessante ma può risultare pesante per qualcuno che ci ascolta per lungo tempo. Alessia, è incomprensibile. Ah, lo trovi incomprensibile? In realtà ci siamo fatti Certa di perdi. Sì, ci siamo perché per... ancora non l'abbiamo chiuso un'ora in una stanza con Stallman. Poi tutte le serate che Stallman. Richard Stallman. Un hacker veramente togo. Con senti, la panza. C'era quella news simpatica che volevamo dare prima di passare a un altro pezzo. Quella sugli ebook. Sì, il tuo settore, gli ebook, illuminaci. Secondo una statistica, sono stati intervistati circa 3.000 americani con più di 16 anni. E questi ragazzi, il 12% degli intervistati insomma che leggono ebook, soltanto il 12% degli intervistati che leggono ebook sa di poter prendere in prestito il libro dalle biblioteche, insomma un libro digitale. Il libro digitale? Io non lo sapevo. Ma solo negli Stati Uniti, in Italia no. Questa statistica è stata condotta negli Stati Uniti. Però il 46% degli intervistati si è detto interessato a questa cosa perché non era proprio al corrente, quindi insomma che se l'avessero saputo prima, insomma, si sono dimostrati interessati e anche ben propensi a seguire dei corsi per imparare a scaricare ebook in prestito. Ebook in prestito, sempre un argomento interessante. Come avviene questo prestito di ebook? Cioè alla fine un libro lo presti fisicamente, l'ebook... Penso che ci sia un modo per trasferire tipo i file... social DRM, sì, di cui parlavamo l'altra volta. Social DRM di cui parlavamo l'altra volta. Wow. Allora, a tutti gli appassionati di ebook e a tutti gli hacker, vi dedichiamo questo pezzo per riprendervi un po' dall'argomento che è stato lungo e vi annunciamo che dopo questo pezzo ci sarà il cantante. Good Golly Miss Molly, Rita Richard. Your mama called. Bentornati qui in diretta sui microfoni di Radio Cirome. Abbiamo Maria, che salutiamo, che ci è venuta a trovare. Ci ha portato un sacco di belle cose, tra cui i soldi da dare ad autistici. Ricordiamo che ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccolto un po' di fondi. Hanno raccolto i ragazzi dell'assalto, più i nostri nerd Mozilla Bros, più Ciotoflow, più Ciotambri di Verde Binario, che salutiamo tutti. Hanno raccolto un po' di soldi per il collettivo Autistici Inventati, tra l'altro anche le birre, no? Quelle sono strane, sì. Sì, sono dei ragazzi di cui parliamo spesso. Tra l'altro saranno presenti ad ACM Meeting e quindi verrà dato questo contributo di Ben. Ben? No, 200 e quasi 50 euro. Allora vedi che le donazioni pagano. Se non c'è bisogno di essere una corporation per fare un sacco di soldi, vero? Ma anche noi, visto che sono sotto di 5.000 euro. Vabbè, ma perché loro sono dei cioti sovietici alla fine. Ma comunque, caro Non Sendai, il cantante in realtà non è arrivato. Tu mi hai fatto dare l'annuncio. No, io ho solo detto vado ad aprire. Io stavo solamente dicendo di salutare Teresa. Ah, ok. Sì, hai fatto tutto tu. Ok, ho sbagliato io. Allora, salutiamo Teresa da? Avezzano. Avezzano, dov'è? Sta vicino all'Aquila. In realtà si chiama Magliano De Marsi. Ah, vicino l'Aquila, quindi ci cogliamo l'occasione. Salutiamo Teresa che sta vicino l'Aquila. E allora Sendai ci dice un po' il programma di ACM Meeting, quando avrà finito le sue faccende domestiche. Ma ACM Meeting non è che c'è proprio un programma, visto che sono comunque 3 giorni di seminari a non finire, di sperimentazioni, di soprattutto una comunità hacker che si incontra, quindi cioè alla fine è tutto molto in divenire. Però abbiamo la pagina dei seminari, quindi vediamo un attimino cosa c'è. Ricordiamo che questo tra l'altro sarà l'ultimo ACM Meeting, visto che è il 2012, quindi poi come tutti sanno ci sarà la fine del mondo. Beh, diciamo che uno dei temi principali è appunto hack the town, ovvero hackerare appunto la realtà di quello che può essere il vivere quotidiano all'interno di una città. Poi non dimentichiamoci che non a caso è stato fatto all'Aquila, che ancora soffre di questa mancata ricostruzione, di questa new town che ha totalmente snaturato e smembrato quello che era la comunità aquilana. Anche a proposito si parlerà di Aquileaks, Sant'Agnese, Global Leaks, ovvero delle piattaforme che avete presente, Wikileaks. Beh, immaginatelo più in piccolo, più in molto più distribuito, ovvero mentre intanto qua cade birra ovunque, mentre Wikileaks è comunque colosso a livello di leaks mondiali, per esempio non si interesserebbe mai di quello che accade per esempio una cittadina piccola come può essere l'Aquila o Cosenza o qualsiasi altra cosa, o il paesino sperduto fra le montagne della Sila dove ci state ascoltando. Global Leaks è questo sistema sicuro e distribuito, dove appunto uno si abbona, tra virgolette, ai leaks di preferenze tipo tematiche o territoriali, e poi gli arrivano queste soffiate in modo anonimo, quindi comunque preservando la sicurezza di chi vuole denunciare qualcosa. E poi soprattutto non è un ente centrale come è il caso di Wikileaks, dove sappiamo anche un po' il dispotismo di Assange cosa ha portato, ma sono chi riceve gli stessi leaks a poi verificarli, a deciderli come diffonderli. Ma poi si parlerà di tutto e di più. C'è un seminario tipo sabato che è la controsessualità come tecnologia di resistenza, passando per retrocomputing, la presentazione del libro dei 10 anni delle attività di autistici inventati. Insomma, qui non posso stare a dirvi tutto, comunque sarebbe inutile, però se volete più informazioni andate sul sito www.acmeeting.org. Sei Togo quando alzi la levetta del mixer. Che non funziona. Va bene, allora dedichiamo, visto che ho sbagliato il saluto, dedichiamo a Teresa questo pezzo, si chiama Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. tell this world that you mind, that you find nail dance and that twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this groove is just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love is true. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to hear that I quit on my thumb? Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. But in this garage, it's just great balls of fire. Pretty baby. Ci siamo lasciati con Jerry Lewis, siamo tornati sulle note di Howlin' Wolf, il nostro caro Howlin' Wolf, sempre caro questa, su queste frequenze, in questa trasmissione, un grande del blues. E siamo tornati qui perché fra poco vi passeremo in anteprima lo spot di Autisti, no, lo spot di Hack Meeting, così vi inviteremo ad andare. Zallarissimo, però abbiamo trovato sì, una grande zallarata. Mentre Alessia scruta altre super news incredibili, ne abbiamo trovato un'altra che sinceramente ci fa un po' ridere, se non ci fa piangere. Terrificante. Cioè, si sapeva che i giapponesi comunque sono strani, cioè che sono strani, cioè hanno fatto il Tamagotchi, cose strane. Sarà pure che li avranno bombardati con le armi nucleari, non si capisce bene il perché, però è passato un emendamento abbastanza terrificante, dove praticamente sotto le pressioni delle varie major discografiche, scaricare non è più un reato civile ma penale, ovvero chi scarica contenuti protetti da copyright rischia fino a 2 anni di prigione e una multa pari a 2 milioni di yen, ovvero 20.000 euro circa. 20.000 euro circa. E 2 anni se uno di scarica, galera. Scusa? Se uno scarica un qualsiasi, cioè se io vado su www.torrentz.com e mi scarico un film, mi arrestano per 2 anni. 2 anni? Sì, a quanto pare sì. E ti fanno una multa di 20.000 euro. Ma non solo questo. Devi anche fare anche Rakiri? Devi uccidere con la testa in avanti? Forse se faranno che è una vergogna scaricare, sì. Ma tra l'altro questo vale anche per copie non autorizzate di CD e DVD varie. Tra l'altro ste pene vanno a sommarsi vanno a sommarsi a quelle che già c'erano per chi invece caricava online contenuti piratati, che addirittura viene punito con una pena massima di 10 anni di prigione e una sanzione di 10 milioni di yen, 100.000 euro. Che dove prende uno, scusa, non abbientissimo. Non si è capito, però penso che è bello, cioè la legge a volte ti stupisce. Tipo ammetti che uccidi un ragazzino che non sta facendo nulla, torna a casa, sei un poliziotto, ti becchi forse 3 anni e 6 mesi. Però se metti canzoni online ti in Giappone te ne spari 10. Allora se il caso ha voluto che voi nasceste in Giappone, sono cazzi vostri. Ma no, andate di VPN, proxy a Roku del sollevante. Yeah! A proposito di Sol Levante, niente, che ne pensi tu di questa iniziativa nipponica? Che ne pensi di questa iniziativa nipponica? Sono malissimo. In che senso? Non c'è il tuo dirimpettaio alla tua destra? Forse sono un po' esagerati. Beh, un po'. Beh, potrebbero, insomma, fare qualcosa. Rilassarsi un attimo. E infatti. Cioè, alla fine, che gliene fotte. Forse le major hanno una grossa pressione in Giappone. L'imperatore preme. Dici che preme? Secondo me l'imperatore non ne sa proprio nulla di queste cose. Non ci vuole l'imperatore. Sì. Senti Maria, tu che ne pensi invece di questa repressione coatta informatica, digitale e nipponica? Beh, io direi che conferma quanto detto prima da ONU, cioè che in Giappone c'è qualcosa che non va. Però la cosa grave che veramente ci lascia inebetiti è che invece sulla rete oggi persone che sono state condannate continuano a denigrare madri di ragazzi che sono stati uccisi, come dicevamo prima. Ebbene, in questo caso invece Facebook non fa niente, tutto a posto. Insomma, allora in questo caso vale la legge che permette la libera espressione. Invece una canzone, una musica che viene ripetuta in rete, allora diventa reato. E vorrei ricordare un'ultima cosa. Durante la nascita della lingua italiana, per esempio Dante Alighieri o tanti altri poeti, in realtà si scopiazzavano fra di loro. Questa scuola non li insegnano, ma è proprio così. Se ci fosse stato il copyright, magari la lingua italiana non sarebbe nata. E questa è una cosa su cui riflettere molto, eh. Wow, è per questo che noi siamo la dicitura copyleft sul nostro sito di Mozilla Bros. Ringraziamo Maria per questo accorato intervento che ci fa riflettere, ci fa pensare. Tra l'altro lei alludeva al gruppo discussione su Facebook dell'associazione di avvocati che difendono i poliziotti, che hanno insultato la madre di quel ragazzo ucciso a botte dai poliziotti. No, non è stato ucciso. Si è sentito male. Dopo che gli hanno spaccato due manganelli addosso, si è sentito male. Ma non c'entra che l'hanno massacrato i pelati. Addirittura all'inizio hanno detto è autolesionismo. Cioè, fantasia, però, eh? Parecchia. Noi ci ridiamo, ma ci sarebbe da piangere. A proposito di piangere, vi facciamo sentire lo spot Luck Meeting. È bellissimo. E tra l'altro, vi consigliamo poi di scaricarlo e ascoltarlo al contrario. Vai con guerra psicologica, a pieno volume, via Romeo Foxtrot, vogliamo ballare? Seuda 14.000 bosi di Esat Nertetesta. Hack Meeting 2012, l'ultimo prima della fine. 29-30 giugno, 1 luglio 2012. Asilo occupato, viale Duca degli Abruzzi, L'Aquila. L'Hack Meeting è l'incontro annuale delle contro-anti-sottoculture digitali che si pongono in maniera critica verso le tecnologie e i loro sviluppi sociali. 3 giorni di seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo. Proprio dugni e dugni. Non ci sono organizzatori e fruitori, sono partecipatori e anche partecipatrici. L'evento è totalmente autogestito. E bestia, non sei bravo. Aquilix. Mapping sociale. Darknet. Anonimato. Gensamnia. Privacy. Insomnia. Sant'Agnese, aiutaci tu. Hack Meeting 2012, l'ultimo prima della fine. 29-30 giugno, 1 luglio 2012. Asilo occupato, viale Duca degli Abruzzi, L'Aquila. Beh, questo era lo spot per Hack Meeting 2012. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Che ne pensi, Alessia? Bellissimo. Ti ha invogliato ad andare a Hack Meeting 2012 all'Aquila? Bellissimo. Sì, bellissimo. Soprattutto bellissimo. Le musiche, bellissime. Un po' tallare, secondo me. Ma è voluto, basta con queste cose di classe. Scusa, bisogna Maria, che ne pensi tu dello spot? Sembra la pubblicità di una festa della birra. Dai, bellissimo. È vero, vieni a Di Pignano alla festa della birra con soli 7 euro, 4. Ma scusa, tu non vorresti conoscere chi ha partorito questa cosa? Certo. Io ho paura di conoscere chi è a questo punto. Comunque sì, senti, prima di salutarci e salutare tutti quanti, passiamo un pezzo. Abbiamo parlato del Giappone, ci secca il Giappone, ce ne torniamo negli Stati Uniti, che ne dicono tutti quanti. Back in the USA. Yeah. Va bene, va bene, siamo in conclusione. Vi salutiamo tutti quanti, ringraziamo coloro che ci hanno ascoltato in radio qui sui 105.7 FM di Radio Ciroma. Ringraziamo coloro i quali si sono collegati in streaming, fra cui Federica, che ci sta ascoltando a forza. Ringraziamo Alessia che ci è venuta a trovare di nuovo, ci ha intrattenuto con la sua super news nerd. Ringraziamo l'altro ospite, Maria, che è intervenuta con un super intervento anarcho-politico soviet nerd. Da Radio Transizione di Fase, che salutiamo perché andremo in replica lunedì. Salutiamo il nostro grande super anno Sentai che sarà al Lock Meeting lì a seguire tutti quei seminari super nerd. Salutiamo Pecorello, Garuf, salutiamo Vipop, Lorenzo Blues, tutti Mozilla Bros, vi salutiamo tutti quanti. Vi diamo l'appuntamento mercoledì prossimo, appuntamento al Lock Meeting il 29 giugno, appuntamento qui a Ciroma Acustica, chi volesse passare il 28 giugno, e faremo vedere anche la partita. E andremo a Vento e Binario fra poco, quindi raggiungeteci. Ciao. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your Ford, and I'll put you in a car and eat up the road. Just tell me what you want, and then sign that line, and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car, and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged boy. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford Dodeville, with a Continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off tape. I want air conditioning, I want automatic heat, and I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio, I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yes, I'm gonna get that car, and I'm gonna head on down the road. Yeah. Buonasera. Buonasera da Radio Roma. Vi canto questa canzone di questa cantante che 3 anni fa ha avuto problemi di salute. Ora si è ripresa. È una canzone struggente. Roxette. Over you, and then you, and then you, and then you, and then you, and you, I will solo. I get on my bed, I get there, I say, I will no stay over you. I will stay with you. I'll never say no. E de Dio. Buonasera, questa è una grande cantante. Meno male che si è ripresa della salute che ha avuto 3 anni fa. Problemi. Intentare io. Mi un po' buffiato. Solo così. Now on the day I was born, the nurses all gathered round. Vi dedico questa poesia, dialetto o italiano? Ah, in italiano, allora. L'altra volta sono andato a Mendoxi. Non è vero, a Mendoxi. Sono andato dalla nonna, l'ho andato a trovare. Faceva la lana. Lei, c'era un gattino dentro il gomitolo di lana e giocava. E come si giocava questo gattino, era bellissimo. Aveva occhi celesti, come il mare o come il cielo. Il gattino era profumato e morbido. Lo accarezzò e gli disse: guarda che bel gattino, che belli occhi celesti, sono bellissimi. E come si chiamava, indovina come? Si chiamava Nuvola, era un bel nome, un nome maschile che esiste poco, forse in Italia, non lo so. Questo nome non si usa assai, poco, per gatti. Di solito lo chiamano... Mo ci inventano un sacco di nomi, Cuore, Aristotele, tutti questi nomi greci, pigliano tutti questi nomi diversi. Poi c'era Omero, l'Odissea, o poi lo chiamano come vogliono i gatti. Poi chiamarlo pure Ulisse, non va niente. Ma un più forte mi hanno detto che era Maciste, quello era forte, era amico di Ercole, della storia. Poi c'era, mi pare che Michele con Ulisse, o no? O sbaglio? Michele, però Ulisse era quello che si liberava sempre dalle catene che erano molto forti, e si liberava lo stesso. Uno ci volesse essere come quello, però è difficile, deve fare assai allenamento. La nonnina si affezionò di questo gattino e se lo tenne per sempre. Aveva 7 anni, e vecchiarello. Buona serata, ciao, grazie. Cantante Roxette, la vorrei io ringraziare lo stesso. Ciao. My mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21, I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man, yeah! I spell